Terzo anello ad alta voce. Il Gattopardo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Il principe cercò un posto dove poter sedere tranquillo, lontano dagli uomini, amati e fratelli va bene, ma sempre noiosi. Lo trovò presto. La biblioteca, piccola, silenziosa, illuminata e vuota. Sedette. Ci si sentì presto a suo agio. Essa non si opponeva alla di lui presa di possesso perché era impersonale, come lo sono le stanze poco abitate. Panteleone non era tipo da perdere il suo tempo lì dentro. Si mise a guardare un quadro che gli stava di fronte. Era una buona copia della Morte del Giusto, di Greso. Il vegliardo stava aspirando nel suo letto, fra sbuffi di biancheria pulitissima, circondato dai suoi nipoti afflitti e da nipotine che levavano le braccia verso il soffitto. Le ragazze erano carine, procaci. Il disordine delle loro vesti suggeriva più il libertinaggio che il dolore. Si capiva subito che erano loro il vero soggetto del quadro. Chiese a se stesso se la propria morte sarebbe stata simile a quella. Probabilmente sì, a parte che la biancheria sarebbe stata meno impeccabile. Lui lo sapeva. Le lenzuola degli agonizzanti sono sempre sudice, ci sono le bave, le deiezioni, le macchie di medicine. E che era da sperare che Concetta, Carolina e le altre sarebbero state più decentemente vestite. Ma in complesso, lo stesso. Come sempre la considerazione della propria morte lo rasserenava tanto quanto lo aveva turbato quella della morte degli altri. Forse perché, stringi stringi, la sua morte era in primo luogo quella di tutto il mondo. Da questo passò a pensare che occorreva far fare delle riparazioni alla tomba di famiglia, ai Cappuccini. Peccato che non fosse più permesso appendere là i cadaveri per il collo nella cripta e vederli poi mummificarsi lentamente. Lui ci avrebbe fatto una magnifica figura su quel muro, grande e lungo com'era, a spaventare le ragazze con l'immoto sorriso del volto incartapecorito, con i lunghissimi calzoni di piqué bianco. Ma no, lo avrebbero vestito di gala, forse in questo stesso frac che aveva addosso. La porta si aprì. «Zione, sei una bellezza stasera. La Marsina ti sta alla perfezione. Ma cosa stai guardando? Corteggi la morte?» Tancredi era a braccio di Angelica. Tutti e due erano ancora sotto l'influsso sensuale del ballo, stanchi. Angelica sedette, chiese a Tancredi un fazzoletto per asciugarsi le tempie. Fu Don Fabrizio a darle il suo. I due giovani guardavano il quadro con noncuranza assoluta. Per entrambi la conoscenza della morte era puramente intellettuale, era per così dire un dato di cultura e basta, non un'esperienza che avesse loro forato il midollo delle ossa. La morte, sì, esisteva senza dubbio, ma era roba ad uso degli altri. Don Fabrizio pensava che è per la ignoranza intima di questa suprema consolazione che i giovani sentono i dolori più acerbamente dei vecchi. Per questi, l'uscita di sicurezza è più vicina. «Principe», diceva Angelica, «abbiamo saputo che lei era qui, siamo venuti per riposarci, ma anche per chiederle qualche cosa. Spero non me la rifiuterà. I suoi occhi ridevano di malizia, la sua mano si posava sulla manica di Don Fabrizio. Volevo chiederle di ballare con me la prossima mazurka. Dica di sì, non faccia il cattivo. Si sa che lei era un gran ballerino». Il principe fu contentissimo. Si sentiva tutto ringalluzzito. Le sue guance pelose si agitavano per il piacere. L'idea della mazurka però lo spaventava un poco. Questo ballo militare, tutto battute di piedi e giravolte, non era più roba per le sue giunture. Inginocchiarsi davanti ad Angelica sarebbe stato un piacere, ma se dopo avesse fatto fatica a rialzarsi... «Grazie, Angelica, mi ringiovanisci. Sarò felice di ubbidirti, ma la mazurka no. Concedimi il primo valzer. Lo vedi, Tancredi, come buono lo zio? Non fai capricci come te. Sa, principe, lui non voleva che glielo chiedessi. È geloso». Tancredi rideva. «Quando si ha uno zio bello ed elegante come lui, è giusto essere gelosi. Ma, insomma, per questa volta non mi oppongo». Sorridevano tutti e tre. E Don Fabrizio non capiva se avessero complottato questa proposta per fargli piacere o per prenderlo in giro. Non aveva importanza, erano cari lo stesso. La coppia angelica Don Fabrizio fece una magnifica figura. Gli enormi piedi del principe si muovevano con delicatezza sorprendente e mai le scarpette di raso della sua dama furono in pericolo di essere sfiorate. La zampaccia di lui le stringeva la vita con vigorosa fermezza. Il mento poggiava sull'onda retea dei capelli di lei. Dalla scollatura di Angelica saliva un profumo di bouquet alla maresciale, soprattutto un aroma di pelle giovane e liscia. Alla memoria di lui risalì una frase di Tumeo: le sue lenzuola debbono avere l'odore del paradiso. Frase sconveniente, frase villana, esatta però, quel Tancredi. Lei parlava, la sua naturale vanità era soddisfatta quanto la sua tenace ambizione. Sono così felice, Zione, tutti sono stati tanto gentili, tanto buoni. Tancredi poi è un amore. E anche lei è un amore. Tutto questo lo devo a lei, Zione. Anche Tancredi, perché se lei non avesse voluto, si sa come sarebbe andato a finire. Io non c'entro, figlia mia. Tutto lo devi a te sola. Era vero. Nessun Tancredi avrebbe mai resistito alla sua bellezza unita al suo patrimonio. La avrebbe sposata calpestando tutto. Una fitta gli traversò il cuore. Pensava agli occhi alteri e sconfitti di Concetta, ma fu un dolore breve. Ad ogni giro un anno gli cadeva giù dalle spalle. Presto si ritrovò come a 20 anni, quando in questa sala stessa ballava con Stella, quando ignorava ancora cosa fossero le delusioni, il tedio, il resto. Per un attimo quella notte la morte fu di nuovo ai suoi occhi roba per gli altri. Tanto assorto era nei suoi ricordi, che combaciavano così bene con la sensazione presente, che non si accorse che ad un certo punto Angelica e lui ballavano soli. Forse istigate da Tancredi, le altre coppie avevano smesso e stavano a guardare. Anche i due Ponteleone erano lì, sembravano inteneriti, erano anziani e forse comprendevano. Stella pure era anziana, però, ma da sotto una porta i suoi occhi erano foschi. Quando l'orchestrina tacque, un applauso non scoppiò, soltanto perché Don Fabrizio aveva l'aspetto troppo leonino perché si arrischiassero simili sconvenienze. Finito il valzer, Angelica propose a Don Fabrizio di cenare alla tavola sua e di Tancredi. Lui ne sarebbe stato molto contento, ma proprio in quel momento i ricordi della sua gioventù erano troppo vivaci perché non si rendesse conto di quanto una cena con un vecchio zio gli sarebbe riuscita ostica allora, mentre Stella era lì a due passi. Soli vogliono stare gli innamorati, o magari con estranei, con anziani e peggio che peggio con parenti. Mai. Grazie, Angelica, non ho appetito. Prenderò qualcosa all'impieri. Vai con Tancredi, non pensare a me. Aspettò un momento che i ragazzi si allontanassero, poi entrò anche lui nella sala del buffet. Disprezzò la tavola delle bibite che stava sulla destra luccicante dei cristalli ed argenti, si diresse a sinistra, verso quella dei dolci. Nella sala odorosa di vaniglia, di vino, di cipria, Don Fabrizio si aggirava alla ricerca di un posto. Da un tavolo si udiva la voce soddisfatta di Pallavicino: la più alta emozione della mia vita. Vicino a lui era un posto vuoto. Chiese scusa, sedette vicino al colonnello che si alzò al suo giungere. Mentre degustava la raffinata mescolanza di bianco mangiare, pistacchio e cannella racchiusa nei dolci che aveva scelti, Don Fabrizio conversava con Pallavicino e si accorgeva che questi, al di là delle frasi zuccherose riservate forse alle signore, era tutt'altro che un imbecille. Era un signore, anche lui, e il fondamentale scetticismo della sua classe, soffocata abitualmente dalle impetuose fiamme bersaglieresche del Bavero, faceva di nuovo capolino adesso che si trovava in un ambiente uguale a quello suo natio, fuori dell'inevitabile retorica delle caserme e delle ammiratrici. Adesso la sinistra vuol mettermi in croce perché in agosto ho ordinato ai miei ragazzi di far fuoco addosso al generale, raccontava Pallavicino. Ma mi dica lei, principe, cosa potevo fare d'altro con gli ordini scritti che avevo addosso? Debbo però confessarlo. Quando lì ad Aspromonte mi son visto dinanzi quelle centinaia di scamiciati, con facce di fanatici incurabili alcuni, altri con la grinta dei rivoltosi di mestiere, sono stato felice che questi ordini fossero tanto aderenti a ciò che io stesso pensavo. Se non avessi fatto sparare, quella gente avrebbe fatto polpette dei miei soldati e di me. E il guaio non sarebbe stato grande, ma avrebbe finito col provocare l'intervento francese e quello austriaco, un putiferio senza precedenti, nel quale sarebbe crollato questo regno d'Italia che si è formato per miracolo. Vale a dire, non si capisce come. E glielo dico in confidenza. La mia brevissima sparatoria ha giovato soprattutto a Garibaldi. Lo ha liberato da quella congrega che gli si era attaccata addosso, da tutti quegli individui, tipo Zambianchi, che si servivano di lui per chissà quali fini, forse generosi, benché inetti, forse però voluti dalle Tuilerie e da Palazzo Farnese. Tutti individui ben diversi da quelli che erano sbarcati con lui a Marsala. Gente che credeva, i migliori fra essi, che si può compiere l'Italia con una serie di 48. Lui, il generale, questo lo sa, perché al momento del mio famoso inginocchiamento mi ha stretto la mano e con un calore che non credo abituale verso chi 5 minuti prima vi ha fatto scaricare una pallottola nel piede. E sa cosa mi ha detto a bassa voce lui, che era la sola persona per bene che si trovasse da quella parte su quell'infausta montagna? Grazie, colonnello. Grazie di che, le chiedo? Di averlo reso zoppo per tutta la vita? No, evidentemente. Ma di avergli fatto toccar con mano le smargiassate, le vigliaccherie, peggio forse, di questi suoi dubbi seguaci. Ma voglio scusarmi. Non crede lei, colonnello, di avere un po' esagerato in baciamani, scappellate e complimenti? Sinceramente no, perché questi atti di omaggio erano genuini. Bisognava vederlo, quel povero grand'uomo steso per terra sotto un castagno, dolorante nel corpo e ancor più indolenzito nello spirito. Una pena. Si rivelava chiaramente per ciò che è sempre stato, un bambino con barba e rughe, ma un ragazzo lo stesso, avventato e ingenuo. Era difficile resistere alla commozione per essere stati costretti a fargli bubù, perché d'altronde avrei dovuto resistere. Io la mano la bacio soltanto alle donne. Anche allora, principe, ho baciato la mano alla salvezza del regno, che è anch'essa una signora a cui noi militari dobbiamo rendere omaggio. Un cameriere passava. Don Fabrizio disse che gli portassero una fetta di Mont Blanc e un bicchiere di champagne. E lei, colonnello, non prende niente? Niente da mangiare, grazie. Forse anch'io una coppa di champagne. Poi proseguì. Si vedeva che non poteva staccarsi da quel ricordo che, fatto com'era di poche schioppettate e di molta destrezza, era proprio del tipo che affascinava i suoi simili. Gli uomini del generale, mentre i miei bersaglieri li disarmavano, inveivano e bestemmiavano. E sa contro chi? Contro lui, che era stato il solo a pagare di persona. Una schifezza, ma naturale. Vedevano sfuggirsi dalle mani quella personalità infantile ma grande che era la sola a poter coprire le oscure mene di tanti fra essi. E quando anche le mie cortesie fossero state superflue, sarei lieto lo stesso di averle fatte. Qui da noi, in Italia, non si esagera mai in fatto di sentimentalismi e sbaciucchiamenti. Sono gli argomenti politici più efficaci che abbiamo. Pallavicino beve il vino che gli avevano portato. Ma ciò sembrò aumentare ancora la sua amarezza. Lei non è stato sul continente dopo la fondazione del regno? Fortunato lei, non è un bello spettacolo. Mai siamo stati tanto divisi come da quando siamo uniti. Torino non vuol cessare di essere capitale. Milano trova la nostra amministrazione inferiore a quella austriaca. Firenze ha paura che le portino via le opere d'arte. Napoli piange per l'industria che perde e qui in Sicilia sta covando qualche grosso, irrazionale guaio. Per il momento, per merito anche del vostro umile servo, delle camicie rosse non si parla più, ma se ne riparlerà. Quando saranno scomparse queste, ne verranno altre di diverso colore, e poi di nuovo rosse. E come andrà a finire? C'è lo stellone, si dice. Sarà. Ma lei sa meglio di me, principe, che anche le stelle fisse, veramente fisse, non sono. Forse un po' Brillo profetava. Don Fabrizio, dinanzi alle prospettive inquietanti, sentiva stringersi il cuore. Il ballo continuò a lungo e si fecero le 6 del mattino. Tutti erano sfiniti e avrebbero voluto essere a letto da almeno 3 ore, ma andar via presto era come proclamare che la festa non era riuscita e offendere i padroni di casa che, poveretti, si erano data tanta pena. I volti delle signore erano lividi, gli abiti sgualciti, gli aliti pesanti. Maria, che stanchezza! Maria, che sonno! Al di sopra delle loro cravatte in disordine le facce degli uomini erano gialle e rugose, le bocche intrise di saliva amara. Nella sala del buffet vuota vi erano soltanto piatti smantellati, bicchieri con un dito di vino che i camerieri bevevano in fretta guardandosi attorno. La luce dell'alba si insinuava dai giunti delle imposte. Plebea. La riunione andava sgretolandosi. E attorno a Donna Margherita vi era già un gruppo di gente che si congedava. Bellissimo, un sogno all'antica. Tancredi dovette faticare per svegliare Don Calogero, che con la testa all'indietro si era addormentato su una poltrona appartata. I calzoni gli erano risaliti sino al ginocchio e al di sopra delle calze di seta si vedevano le estremità delle sue mutande, davvero molto paesane. Quando la famiglia si fu messa in carrozza, la guazza aveva reso umidi i cuscini, Don Fabrizio disse che sarebbe tornato a casa a piedi. Un po' di fresco gli avrebbe fatto bene, aveva un'ombra di mal di capo. La verità era che voleva attingere un po' di conforto guardando le stelle. Ve n'era ancora qualcuna proprio su, allo zenith. Come sempre, il vederle lo rianimò. Erano lontane, onnipotenti e nello stesso tempo tanto docili ai suoi calcoli, proprio il contrario degli uomini, troppo vicini sempre, deboli e pur tanto riottosi. Nelle strade vi era di già un po' di movimento, qualche carro con cumuli di immondizie alti 4 volte l'asinello grigio che li trascinava. Un lungo barroccio scoperto portava accatastati i buoi, uccisi poco prima al macello, già fatti a quarti, e che esibivano i loro meccanismi più intimi con l'impudicizia della morte. A intervalli una qualche goccia rossa e densa cadeva sul selciato. Da una viuzza traversa intravide la parte orientale del cielo, al di sopra del mare. Venere stava lì, avvolta nel suo turbante di vapori autunnali. Essa era sempre fedele. Aspettava sempre Don Fabrizio alle sue uscite mattutine, a donna fugata prima della caccia, adesso dopo il ballo. Don Fabrizio sospirò. Quando si sarebbe decisa a dargli un appuntamento meno effimero, lontano dai torsoli e dal sangue, nella propria regione di perenne certezza. Pietro Biondi ha letto Il Gattopardo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Regia di Anna Antonelli. Riduzione di Chiara Nicoletti. Coordinamento di Fabiana Carobolante. Il terzo anello @rai.it